buona serata è rivolta a tutti voi all'ascolto in questo istante di Rock FM, la voce di Marco Gravelli, lo spazio di Art & Davy prende il via nel primo appuntamento della settimana, il terzo, se siete nella giornata di mercoledì e seguite quindi la nostra replica. Come sempre il saluto va al nostro autore Simone, che ha preparato la tracklist e le note biografiche di questa sera, e allo sponsor Mariposa Dischi, Corso Lodi, numero 1 a Milano. Sito internet www.mariposadischi.it. La nostra prima parte, ben sapete, almeno spero, è incentrata sui riallacci degli anni 80, a volte anche 70 e 90, e quindi partiamo con una band che arriva dalla Germania, una delle più acclamate del genere AOR, anche se siamo in Germania. Si chiamano Fair Warning. Il gruppo nasce alla fine degli anni 80, creati dall'ex bassista degli Zeno, cioè Ole Winsom Rittgen, e dal bravissimo cantante Tommy Heart, proveniente dai V2. L'esordio arriva nel 1991 con l'omonimo album. Sin dall'esordio hanno avuto un ottimo successo, soprattutto in Giappone, tanto che subito hanno pubblicato un live registrato proprio in Giappone. Il loro successo arriva anche con ottimi lavori come Rainmaker e soprattutto Go, che vende ben 100.000 copie in Giappone, oltre a essere votato l'album dell'anno dalla famosissima rivista magazine musicale giapponese, cioè Burn. Nel 2000 la band si scioglie e i vari musicisti si dedicano ad altre formazioni come Soul Collector, Lost Autumn Dream, Dreamtime. Nel 2005 invece i cinque musicisti decidono di riunirsi e di registrare un nuovo album dal titolo Brothers Keeper, uscito proprio a metà del 2006. Noi dal loro primo album, 1991, intitolato Fair Warning, andiamo a proporvi le note di questa Out on the Run. Dancing on the grandissimo disco d'esordio dei Fair Warning, il quintetto tedesco che pubblica nel 1991 il primo lavoro dal quale vi abbiamo proposto questa Out on the Run, ottima band di AOR pur provenendo dalla Germania. Andiamo in America invece con questa heavy metal band che ha inciso due album, si chiamavano Hitman, arrivano da New York con due album solo in studio. Il gruppo era formato da cinque elementi nei quali c'era menzionare il cantante Dirk Kennedy, che fu anche il primissimo cantante degli Anthrax, anche se con loro non ha mai inciso nulla. Con gli Hitman incise il primo album dopo la nascita, che avvenne nel 1984, furono associati proprio per il vocalist Dirk Kennedy, per le sue qualità vocali, ai Queensryche. Dopo un demo nel 1985 suonarono di spalle ai Kicks, ai Saxon, agli Striper, e dopo tre anni arriva l'album d'esordio che si intitola Hitman come loro. Cinque anni dopo arriva il secondo Vivas Machina, che vedeva la sostituzione del batterista. Dopo quest'album però la band si scioglie. Il cantante Dirk Kennedy ha registrato un nuovo album solista proprio in questo periodo, che si intitola Life is Now, e la cui uscita è prevista proprio per questo 2008. Andiamo a prenderli in considerazione dal loro album d'esordio Hitman e li proponiamo con il brano intitolato Dead on Arrival. Yeah. La formazione americana proveniente da New York erano gli Hitmen. Rimaniamo ancora in America anche con il prossimo lavoro, che è uscito comunque nel dicembre del 2007. Parliamo dei Seven Witches. È il settimo album in studio per la band del chitarrista americano Jack Frost, che ricordo ha suonato anche nei Metalium oltre che nei Savatage per un breve periodo. Per quanto riguarda la lineup, alla voce rimane confermato per la seconda volta l'ex cantante degli Heads, cioè Alan Tecchio, in formazione già dal precedente album. Questo lavoro si intitola Deadly Sins, è un concept, ci sono 10 brani in totale. Noi proponiamo le note di Knowledge, sono i Seven Witches. La formazione è quella dei Seven Witches, dal loro ultimo lavoro dal titolo Deadly Sins, questo concept album dal quale oggi vi abbiamo proposto le note di Knowledge. Ritorniamo al passato, ritorniamo ancora all'America. È una delle cosiddette hair metal band degli anni 80 che hanno avuto un buon seguito, soprattutto con i primi due album che vi consiglio. Se amate Van Halen, loro sono un po' dei cloni. Non per niente i primi due album erano prodotti dallo stesso produttore, Ted Templeman, che ha prodotto i primi lavori dei Van Halen. Sto parlando dei Bullet Boys, gruppo che nasce nel 1986, creato dal cantante Mark Torjen, dal chitarrista Mick Sueda e dal bassista Lonnie Black, dopo essere fuoriusciti dai King Cobra, nei quali avevano militato. È nel 1988 che arrivano all'esordio con l'omonimo album, che gli valse date di spalla a Cinderella, Cheap Trick e Bon Jovi. Segue nel 1991 il secondo Freak Show, che riportò di spalla gli Slaughter, e al terzo album del 93 intitolato Zaza. Cominciano quindi problemi che porteranno Sueda e il batterista a lasciare la band. Con una nuova lineup arriviamo al 1993 con il quarto album Acid Monkey, con il quale cercavano di spostarsi verso sonorità in voga all'epoca, che però allontanano decisamente i loro fan. Gli scarsi risultati di vendita portarono a nuovi cambi di formazione e dopo 10 anni arriverà il quinto album intitolato Sophie. La band è ancora in attività e lo scorso anno ha pubblicato il loro primo album dal vivo intitolato Behind the Orange Curtain. Oggi li andiamo a proporre con il brano che apre il secondo album, Freak Show. Il brano si intitola Hell Yeah e noterete veramente sia nel vocalist sia un po' negli accordi di chitarra, nei riff di chitarra, la somiglianza ai Van Halen. Anche l'etichetta discografica, la Warner Bros., era la stessa. Dall'album Freak Show, i Bullet Boys con Hell Yeah. Sullo stile Van Halen abbiamo ritrovato i Bullet Boys. Se vi piacciono vi consiglio questo album Freak Show e anche il loro precedente, il primissimo lavoro. Andiamo invece in Canada con il gruppo degli Annihilator, il cui leader è il chitarrista Jeff Waters. La band nasce nel 1985 in quel di Ottawa. L'esordio arriva 4 anni dopo con Alice in Hell, che sin da subito l'impose all'attenzione della critica. Con un nuovo cantante e un nuovo secondo chitarrista arrivano al secondo album, Never Neverland. Siamo nel 1990. Successivamente Waters si sposterà a Vancouver, dove rivoluzionerà la lineup. Moltissimi sono in effetti stati i cambi di formazione. Da notare che in origine la band era composta da 5 elementi, mentre oggi si tratta di un trio. Per quanto riguarda la formazione attuale, completata dal cantante David Pattern e poi dal batterista Mike Mangini. L'ultimo, 12° album in studio, è uscito lo scorso anno e si intitola Metal e vede la presenza di diversi special guest. Andiamo a prendere in considerazione il loro secondo album, 1990, Never Neverland. Ascoltiamo il pezzo che apre il lavoro, cioè The Fun Palace Annihilator. We'll be right back. because of you. Thank you. Siete su Rock FM, la voce di Marco Gravelli. Siamo nella seconda parte del nostro primo appuntamento della settimana di Arden Day. Chiusa la prima con i canadesi Annihilator, ci siamo trasferiti in Svezia con questa formazione, ottimo album d'esordio di AOR. Si chiamano Work of Art, è uscito alla fine alla fine di questa settimana, è questo album d'esordio. Loro si chiamano Work of Art, come vi dicevo, band svedese composta da tre elementi, scoperta dall'etichetta italiana Frontiers Record. Anche se arrivano soltanto ora all'esordio, la band è nata molto tempo fa, addirittura nel 1992, quando fu creata dal chitarrista e dal batterista. Però per divergenze musicali si sciolse tre anni dopo. Nel 1998 riescono a trovare un accordo, diciamo, sul genere da proporre, e cominciano così a scrivere nuove tracce. Purtroppo il bravo cantante Lars, a causa di molti impegni, lascia la band. È solo nel 2007 che Lars, ascoltando le tracce che avevano registrato, si decise a tornare a cantare. Registrano un demo lo scorso anno, che non solo è stato premiato come demo dell'anno da un magazine inglese, ma soprattutto ha colto l'attenzione dell'etichetta Frontiers Record, che li ha messi sotto contratto e ne pubblica questo interessante omonimo album, che si compone di 12 brani di classico AOR. Noi vi abbiamo presentato il brano in questione dal titolo Cover Me. Presente infine come special guest al basso Andreas Olsson dei Divine Fire. Nel frattempo, lo scorso weekend, il cantante Lars ha vinto le semifinali delle Eurovision Contest rumeno con la canzone Shine, che non c'entra nulla con i Work of Art, non è presente nel loro album. Abbiamo quindi ascoltato loro con Cover Me, ci trasferiamo in Italia. È appena uscito questo CD dei Dark Light, un nuovo progetto creato dal chitarrista Frank Caruso degli Arachnes, che in quest'album, dal titolo Light from the Dark, si occupa di suonare tutti gli strumenti, oltre che le chitarre naturalmente, e alle parti vocali maschili, e vi è poi un ingresso di una parte femminile, voce femminile, che è quella di Paola Baldacci. L'album uscirà il 27 febbraio e si compone di 12 brani di un metal tra il gotico e il medievale. Andiamo ad ascoltare questo brano che si intitola Come to Hell, da Light from the Dark. Sono gli italiani Dark Light. I'm not the one with different eyes. Senza d'apertura del lavoro Live from the Dark per il chitarrista Frank Caruso degli Arachnes con questo progetto Dark Light, il pezzo è Come to Hell. Andiamo ora in Polonia con la prossima band, una band interessante per il crossover del loro sound. Sono in 5, nati nel 93, l'esordio arriva nel 94 con l'album Forgotten Distant Time. In principio erano dediti a un doom metal, classico doom metal. Poi, album dopo album, sono arrivati a mischiare vari generi. Per questo vi dicevo interessante come proposta crossover, tanto che questo nuovo album combina elementi gotici con altri più progressivi. Il loro precedente album risaliva addirittura a 6 anni fa. Ora esce questo Frozen Circus, che presenta 8 brani in totale, compreso un intro. Il pezzo che vi presento si intitola Thor Message, Eternal Deformity è il nome della band, direttamente dalla Polonia. Yeah. Inizia l'appuntamento con le Metal News di questa sera, preparate come sempre dal nostro Simone. Si parla degli Iron Maiden. Il 1 febbraio è uscita ufficialmente la riedizione in DVD dello storico concerto Live After Death, che finora era disponibile solo in formato VHS, videocassetta. Per quanto riguarda invece il lato video, non contenti però, il concerto che hanno tenuto praticamente 2 giorni fa, 16 febbraio, in quel di Tokyo, è stato filmato per la pubblicazione di un prossimo ennesimo DVD. Parliamo degli Eden Bridge, uscirà il 25 di aprile su Napalm Records, il 5° album per questa band austriaca. Il titolo sarà My Earth Dream e si comporrà di 11 brani mixati nuovamente presso i Thin Eye Studios ad opera di Carl Groom, mentre la masterizzazione è avvenuta in Finlandia presso i Finvox Studio ad opera dell'esperto Mika Jussila. Sarà presente inoltre un'imponente orchestra composta da 65 elementi. Parliamo degli In Flames. Registrato e reso disponibile il video del singolo The Mirror's Truth per la band svedese. L'uscita del singolo è prevista per il 7 di marzo e si presenterà come un EP, dato che saranno incluse altre 3 tracce che non faranno parte dell'album. I Tiamat, il nuovo album Humanities della band svedese, uscirà il 18 di aprile su etichetta Nuclear Blast e si comporrà di 14 brani prodotti dallo stesso leader Hedlund in Grecia ed in Svezia e mixate e masterizzate in Germania. I Trivium hanno registrato ben 20 canzoni durante la fase di preproduzione per il prossimo nuovo album in studio. Rimane ora da definire quali e quante tracce verranno selezionate e quindi procedere con le registrazioni effettive. Gods of Metal ha rese note altre 5 band che prenderanno parte alla nuova edizione del festival, che quest'anno, lo ricordo, si terrà a Bologna per 3 date. Dal 27 al 29 di giugno. Si tratta degli australiani Rose Tattoo, dei tedeschi In Extremo, dei King Crow, degli Obituary e degli Apocalyptica. A proposito degli Apocalyptica, sono usciti lo scorso anno con un nuovo album in studio dal titolo Worlds Collide, che gli è valso 3 nomination agli awards finlandesi che si terranno il prossimo 3 marzo. Le categorie nelle quali sono stati nominati sono Album dell'anno, Album Metal dell'anno, Band dell'anno e canzone dell'anno con il pezzo I'm Not Jesus. Oggi noi ve li proponiamo, sempre da questo album Worlds Collide, con il brano Last Hope, dove alla batteria c'è Dave Lombardo degli Slayer. Apocalyptica. Dev Lombardo alla batteria in questo brano degli Apocalyptica che abbiamo ritrovato dal loro ultimo lavoro Worlds Collide. Andiamo a parlare di un'altra nuova band, si chiamano Mainline Riders, album d'esordio, arrivano dall'America, composte da quattro elementi. Il leader e il chitarrista Cliff, che dopo aver militato in altre due band, ha creato questa formazione. Scrive delle nuove composizioni, si autoproduce questo Shot in the Dark, questo è il titolo dell'album, lo spedisce a diverse etichette e alla fine ottiene un contratto con la Retroactive Records, che si è occupata della pubblicazione. L'album è stato prodotto e fatto tutto da lui. Ci sono nove canzoni influenzate dal glam ed air metal degli anni 80. Ripetiamo il nome: Main Line Riders. Il pezzo è Ride the Main Line. D'apertura dell'album Shot in the Dark per i Mainline Riders, si intitola Ride in the Main Lane. E arriviamo con la prossima band alla chiusura del nostro spazio serale di Hard and Heavy. Si chiamano Crematory, storica band di gothic metal. Il nuovo album lo abbiamo già presentato con altre tracce le scorse settimane, è l'11° album in studio, si intitola Prey, che questa settimana ha fatto il suo esordio nelle classifiche tedesche, siamo alla 64esima posizione. Album che è uscito di nuovo tramite Massacre Records, etichetta che li aveva lanciati nei primi album, con i primi album a partire dal 1993. La formazione è nuovamente stabile, tanto che in 15 anni di attività hanno cambiato un solo chitarrista. Io vi lascio con le note di Burning Bright da questo nuovo Prey dei Crematory. Vi auguro un buon proseguimento di serata, naturalmente con gli altri programmi di Rock FM. Ci ritroveremo domani sera dalle 20 alle 21 per un altro spazio di Hard and Heavy, offerto come sempre da Mariposa Dischi, Corso Lodi al numero 1 a Milano. Grazie a Simone, grazie al nostro sponsor e come già detto, buon proseguimento. Seguito a domani sera. Da Marco Gravelli è tutto. Ciao ciao! We'll be right back. are listening to a new promotional CD which is property of Massacre Records. Walk this way and you will find the burning bridges inside your mind. So you look back into nowhere to see all these bridges are meant to stay. To a new promotional CD which is property of Massacre Records. See evil, you will fight. See evil, it's on your mind. May it bring you anywhere. To ever or to turn. To look close from anywhere. And you find.